Avventurieri, davanti a voi ci sono degli uomini legati e imbavagliati. Le corde che li imprigionano sono attraversate da un flusso di energia elettrica, protetto da un incantesimo. Per liberarli in sicurezza, dovete interrompere questo flusso tagliando le corde con uno strumento fatto esclusivamente di materiali che non conducono elettricità. Accanto a voi c'è una cassetta degli attrezzi con 4 strumenti. Sta a voi scegliere quello più adatto. Ecco cosa trovate: un piccone con manico di legno e testa di ferro, una lama da taglio interamente in rame, una cesoia con manici rivestiti in gomma e lame d'acciaio, una scure con lama di pietra e manico di legno. Pensate bene, vi serve uno strumento che non permetta all'elettricità di passare, né nel manico né nella lama. Quale scegliete?